Sotto il limite del cielo è una serie reportage in 5 puntate con testimonianze, memorie e interviste ad artiste, organizzatori, spettatori e staff del Bethlehem Festival Site Specific, tra Beit Jala, Betlemme e Hebron. Una serie audio in cui il teatro, come luogo di incontro tra identità, memoria e consapevolezza, si declina in uno strumento di ricerca artistica e resistenza in Cisgiordania. Bethlehem Festival Site Specific è il festival di teatro che ha ospitato la performance Footloose della compagnia teatrale Teatro in Gestazione. Il teatro, come strumento di conoscenza e scoperta, diventa spazio di incontro con il popolo palestinese. Questo è l'inizio di una storia, ma per raccontarla è importante testimoniare e farne parte. Culla di civiltà. Alla Lara Theater abbiamo appuntamento con George. Ci accompagnerà per illustrare lo spazio in cui avverrà la performance Footloose. Il lavoro per cui siamo stati invitati è un'azione urbana partecipativa a base laboratoriale, nata in occasione di Trasparenze Festival 2017, che ci aveva affidato la creazione di una performance con il gruppo Mareua, composto da migranti richiedenti asilo del progetto Mare Nostrum a Modena. Footloose è stato preparato ed eseguito a Ruvo di Puglia, sempre nel 2023, per le danzatrici en plein air festival e nel 2018 per il camp-in a San Luis Potosí, in Messico. La chiamata di Trasparenze è arrivata proprio mentre seguivamo a distanza gli sviluppi e le sorti di Civil March for Aleppo, una marcia civile per la pace da Berlino ad Aleppo, lungo la rotta dei rifugiati in direzione opposta. Iniziativa autonoma nata da persone che non rappresentano alcuna organizzazione o partito politico, semplicemente cittadini che insieme hanno deciso di lanciare un appello all'azione e scelto di non restare a guardare. Footloose è una parola a immagine e movimento, è un'azione poetica che invita a mettersi in cammino, a sconfinare, a rischiare, perché in nessun luogo siamo al sicuro. Perché siamo noi la mina che vaga, il muro che crolla, la fuga, il mare aperto in tempesta, la lingua straniera, la terra. Terra di passaggio, perché non c'è più casa a cui tornare, ma un'umanità nuova da fondare al grido di Let's Dance. Footloose è un'immagine chiara, un muro in movimento, incorporato, innestato nei piedi, trascinato da corpi che marciando segnano e disfano nuovi confini. Una marcia che di fatto vuole annullare il senso di separazione, di negazione, di limitazione che porta con sé l'immagine del muro. Ci avviamo presto perché verso le 10:30 le strade di Beit Jala e Betlemme saranno invase da numerose auto per la celebrazione del giorno del diploma, Taujihi. Alle 9:30 siamo già a Betlemme. Con l'auto arriviamo a parcheggiare in Milk Grotto. George ci porta verso la piazza centrale, ci mostra una delle lunghe scale che scende da Milk Grotto e giunge ad un grande spiazzale adibito a parcheggio per i taxi. Tra il parcheggio e l'inizio delle scale ci sono due strutture che ospiteranno altre performance del festival: il Center for Cultural Heritage Bethlehem e l'Arch Bethlehem. Con la piazza principale alle spalle, notiamo sulla destra una discesa che sembra porti in un negozio di tappeti. Davanti all'entrata, una signora e un signore sono seduti. Da lontano scorgono il nostro volto e ci salutano con un sorriso leggero. La strada prosegue a sinistra. George ci conferma che da lì la marcia può entrare fisicamente dentro la città, per poi incontrarsi con la strada da cui segue la seconda rampa di scale. Siamo pronti a preparare i partecipanti e le partecipanti al laboratorio, che conosceremo da lì a poco. Una volta confermato il tragitto della marcia e la sua conclusione, entriamo in auto e prendiamo la strada per tornare a Beit Jala. I festeggiamenti del Taujihi sono appena cominciati. Giovani ragazzi e ragazze sfilano nelle auto dei genitori e degli amici, spruzzano bombolette e spray e suonano clacson all'impazzata, bloccando completamente il traffico. I diplomati sono seduti sui bordi dei finestrini abbassati. C'è anche chi invece sbuca dal tettuccio dell'auto e si saluta con l'auto nella corsia opposta. Una sfilata che si caratterizza di suoni pieni di gioia e gratificazione. Molte auto hanno scritto con lo spray sul vetro anteriore il voto con cui si sono diplomati. Nel pomeriggio prendiamo il Pullman 231. La fermata è vicinissima alla Lara Theater. Dopo circa 10 minuti, appena varcata l'entrata dell'autostrada, l'autista si ferma sulla destra e siamo costretti a scendere. Sono visibili dei militari israeliani armati. Aspettiamo il loro arrivo. Ci mettiamo in fila tra donne e uomini palestinesi che, come noi, prendono i documenti per il riconoscimento. Con molta calma, i militari raggiungono il pullman. Fanno un cenno freddo col capo all'autista, che a sua volta, fermandosi, scende dall'autobus e si allontana per fumarsi una sigaretta, mentre i militari israeliani salgono su per un controllo integrale. Una volta terminata la perquisizione, ci chiedono di avvicinarci per il controllo dei nostri documenti. Nel nostro caso mostriamo il biglietto blu con il visto da turista. Risaliamo tutti e tutte. Ripartiamo per Gerusalemme. Dopo circa 45 minuti entriamo nella città. Superiamo Jaffa Gate e decidiamo di scendere a Damasco Gate. A poche centinaia di metri dalle due porte il paesaggio cambia radicalmente. Non ci lasciamo ammaliare dalle voci di tassisti che vogliono portarci chissà dove e ci dirigiamo verso l'entrata della città sacra. A pochi metri dall'entrata, venditori ambulanti alla destra e alla sinistra della piccola passerella. Tra questi, un bambino ride con il suo compagno per i dollari guadagnati con la vendita di una bottiglia d'acqua. Entriamo e ci immergiamo nei colori e nei suoni dell'enorme mercato. Ci ripetiamo di restare uniti e di non disperderci. A pochi metri dall'entrata, una biforcazione. Per un attimo ci dimentichiamo del motivo per cui siamo a Gerusalemme, quali siti religiosi visitare, dove fermarci per comprare qualche souvenir. Siamo catturati dalla preparazione dei falafel di un signore nel suo locale al centro del bivio. Decidiamo di mangiare prima di continuare il nostro cammino. Prendiamo sandwich con falafel, chi con lo spicy, chi senza. Una volta finiti avidamente, decidiamo di prendere la strada di sinistra, verso il Santo Sepolcro e il West Wall. Si ha la sensazione di essere in un dedalo di confini etnici, confini di sapori, suoni linguistici che si susseguono e si perdono nel nostro tentativo di orientarci. C'è il quartiere arabo, il quartiere ebraico, il quartiere armeno, il quartiere cattolico, tutti nello stesso luogo. Tutti divisi, ma prossimi tra le culture. Con difficoltà riusciamo a trovare l'entrata per il West Wall. Come ormai ci hanno abituato le autorità israeliane, siamo pronti a passare sotto il metal detector, a lasciare i nostri marsupi, borse, sul nastro per il consueto checkpoint. Arriviamo nella piazza in cui spicca il muro del pianto. Solo dopo un po' notiamo la suddivisione tra uomini e donne. Ad uno di noi viene offerta la kippah prima di avvicinarci al muro. Per le donne, invece, la fila per avvicinarsi si compone su due linee. Qualcuno di noi approfitta per rinfrescarsi la testa da fontane messe appositamente per i fedeli e i visitatori. Un enorme flusso di gente, di differenti età, di differenti provenienze, lì riunite nonostante il caldo infernale per il West Wall. La nostra prossima tappa è la moschea. Proviamo a seguire le indicazioni. Molto vicino a dove eravamo, entriamo in un vicolo e da lontano notiamo l'entrata per l'Al-Haram al-Sharif, dove c'è la moschea al-Aqsa. A qualche metro dall'entrata ci sono 5 poliziotti israeliani armati. Ci fermano. Ci comunicano che non possiamo entrare perché non siamo musulmani. L'unico giorno in cui possiamo visitare l'area è domenica, dalle 7 alle 11 del mattino. Dispiaciuti per la mancata visita, decidiamo di visitare il Santo Sepolcro, nel quartiere cattolico, nel luogo in cui Gesù fu crocifisso, ricevette l'unzione per la sepoltura e dove risorse. In modo anche fortuito e inaspettato, decidiamo di girare sulla destra, in uno dei vicoli del centro storico, e notiamo dallo scorcio del viale che si tratta del quartiere cattolico. Prima di raggiungere il Santo Sepolcro, veniamo catturati dalla porta d'ingresso del mercato, Aftimos, all'interno del Muristan, un'area da cui si diramano strade, piccole piazze e negozi di artigianato. Seguiamo le indicazioni e arriviamo all'entrata della chiesa, la cui facciata ospita il transetto da cui entrare. Una volta entrati troviamo la pietra dell'unzione, uomini e donne inchinati a toccare il luogo dove Gesù fu appoggiato per la sepoltura. Il livello di saturazione contemplativa è alto, forse troppo per qualcuno che ha deciso di avviare una diretta sul proprio profilo Instagram mentre prega. Alla sinistra della pietra dell'unzione vi è l'edicola del Santo Sepolcro, sotto una delle due cupole più grandi che costituiscono la chiesa. Una lunga fila aspetta il suo turno per osservare dall'interno l'architettura. Nel piano rialzato, invece, alla destra della pietra dell'unzione, vi è la Cappella del Calvario, ritenuto il luogo dove Gesù fu crocifisso. La sacralità del posto si percepisce nel volto dei preti che vigilano in silenzio, seduti o girovaghi ad ammonire la minima impertinenza del visitatore o della visitatrice. Dopo 40 minuti di visita, usciamo. Le nostre volontà sono ora di raggiungere il Jaffa Gate, non distante dal Santo Sepolcro. Al ritorno dal Jaffa Gate, passiamo per il quartiere armeno. Anche qui la presenza delle autorità israeliane è ostinata. Più che un presidio, è un rimarcare la presenza e l'ordine da parte di qualcuno che ti esclude dal suo sguardo, perché ciò che gli interessa non sei tu, turista, ma qualcun altro che è sotto osservazione perenne. Verso le 19 decidiamo di ritornare verso casa. Torniamo nel luogo in cui siamo scesi dal bus. Troviamo la banchina con il numero 231 e aspettiamo circa una mezz'ora. All'arrivo del bus notiamo che l'autista è lo stesso dell'andata. Anche lui si accorge di noi e ci sorride. Quando saliamo ci fa delle battute conviviali. Beit Jala è una piccola città con circa 15.000 abitanti, situata su una collina a circa 1.000 metri d'altezza, in cima alla montagna. Sita a circa 10 km a sud rispetto a Betlemme. Molti residenti e abitanti di Beit Jala, prima del 1917, hanno iniziato ad emigrare in America Latina per trovare lavoro e reddito, e ora ci sono più persone di Beit Jala in Cile, in Perù e in Ecuador che qui. Ci sono molti palestinesi che vivono in America Latina ed è per questo che quando si va per strada si trova ad esempio una scuola chiamata Chile School, in Chile Square, dove il presidente del Cile l'ha inaugurata 2 anni fa. Beit Jala è nota per gli ulivi, alcuni hanno quasi 2000 anni, ed è molto conosciuta per le buonissime albicocche che vengono prodotte solo per una settimana, di solito a luglio. La prima scuola femminile fu fondata a Beit Jala da un gruppo di suore russe ortodosse. È stata la prima scuola femminile in Cisgiordania. È esattamente al confine tra l'area A, l'area B e l'area C. L'area C è completamente controllata dagli israeliani ed è tutta l'area verde, dove non è permesso nemmeno costruire case. Per esempio, il pub Jala Jungle è in quell'area. Con lo spostamento di persone da Hebron che sono giunte qui e hanno comprato terra a Beit Jala, ora è quasi per il 70% abitata da cristiani e per il 30% da musulmani. È gemellata con Reggio Emilia, con alcune città tedesche, con una città in Romania e con Vienna. Ci sono 3 gruppi scout, cattolici, ortodossi e luterani. Ci sono 4 chiese, scuole pubbliche e private. Dopo il 1990 è stata costruita l'unica moschea. 20 luglio 2023. Verso le 20:10 il tramonto comincia ad impiastrare il cielo di rosso dietro le colline. Di sera, poche stelle, molto silenzio. Durante la notte sentiamo leggere folate di vento sussurrare come voci impazienti, traboccano, tracimano, provano a raggiungere il mondo dall'altra parte del cielo. come un'eco si riflettono sul passato e sul futuro. Raccontare la propria storia, il senso d'appartenenza alla propria cultura, diventa sempre più difficile e osteggiato. L'arte si muove in spazi esigui, a volte inaccessibili, ma trova il coraggio e la forza per far riunire persone, grandi e piccini, per guardare, ascoltare, dibattere, emozionarsi, ricordare e affrontare insieme la complessità del presente. Affrontare il rischio che il cielo venga spento dall'indifferenza e il palcoscenico sepolto dalle macerie.